sono uno eppur ce ne son tanti come me. Comincio un nuovo giorno col caffè e quella donna che mi sveglia la mattina è una bambina, la mia bambina. Perché quando ritorno